mezzo di quel camerista per permettere di essere. Che buonasera. Ehi, ciao Manuel. Ciao Manuel, Gianni, Franco sono, ciao. Ehi, Franco. E allora di Franco? No, sono in macchina, sono andato a prendere un'amica di Lucia qua, in via Rolando sono. Sta scendo bene. Vabbè, sto scendo liscio Gianni. Sto scendo con i batti sui, con quella tenda piccola. Va bene, ma sei attaccato? Sto negativo già, sono attaccato. Salviamo la 95 Radio 5. Guarda, adesso sono attaccato, ma magari fai saturazione. Ti mangia un po' la radio, non è che fa saturazione, si sente la compressione e ti mangia un po' la radio. Guarda adesso c'è il bambino, 1, 2, 3. E insomma, cupo è. Caragava, vabbè lo so che mangia la radio. Aspetta, SSP. Era SSP, ga. Se non vuoi che te la mangi la radio, devi usare 747, quello te l'aumenta. Tutto saturo, sei gatto. Ehi, ciao Luca, ma a me non mi interessa, tanto non lo voglio togliere l'amplificatore dalla macchina, già. Con questo qua non ne ha problemi, da 25 watt questo apparecchio, capito? Ciao Luca, buonasera. Canta, da 25 watt, scusa, che ingresso gli stai dando? Gaba, ma lo voglio lasciare così, non lo voglio abbassare. Me lo tiro il lineare da qua, non ne ho bisogno, sto scendo liscio con i batti suoi, capito Luca? Qua tutto, qua va bene, e niente, va bene, dai, che continuo qua. Vabbè, sto utilizzando quell'antenna caricata comunque. Sì, tutto roggero qua, tutto roggero, avanti già. Sì, ciao Luca. Sto... Già non sei uscito nell'ultimo passaggio, non sei uscito Io ho premuto male perché questo c'ha il tasto duro, il microfono c'ha il tasto quadrato, cazzo, alla fine il dito molla perché non ce la fa. E adesso è uscito solo. Capo di positivo, tutto K. E ti stavo dicendo, già la radio va bene questa. Sì, va bene, va bene. Io come ci sto arrivando lì in quella zona? 9:10, radio Super 5, però devi considerare che io sono in via Rolando e sono in mezzo ai due palazzi, capito? Vabbè, era per sentire se esce bene, dai. Va bene, va bene. Tu considera che io sono in mezzo ai palazzi, tutto chiuso qua, e sto arrivando bene lì da te. Già va bene, volante. Vedrai quando metti questo lì in macchina, cappa. Volevo mettere l'altro già, ma poi ho detto va per qua e va. Se no c'è anche il magno da mettere. Scappa. Quello di Luca ha la coda dell'Ecco in più. Il tuo non ne ha di coda. Invece quello di Luca c'ha la coda dell'Ecco. È tipo il girino. Vabbè, il mio c'ha tutto. C'ha doppio modulatore, l'Ecco, i canali sotto e sopra e va. L'unica cosa che non c'ha è l'elicottero, ma quello basta andare a Fertilia. Ne carico uno sopra il tetto e lo porto qua. Dai, da Luca quello lì, che se lo vende e ti prendi quello di Luca. Ma non me ne faccio nulla, Gianni. C'ho il magno, se io voglio l'Ecco mi metto il magno direttamente, capito? Che mi dà 80 watt quel magno che c'ho io. L'S9 c'ho il magno io. Io c'ho l'S9, capito? Come il tuo, quello americano. E quello da 20 watt. Guarda, 20 watt in AM e 50 in banda laterale. Sì, ma ho capito, ma io quello lì mi abbasso i watt, capito? Non posso usare il P150 perché lo faccio uscire con l'ingresso di 2 watt e posso utilizzarlo con lineare che me ne spara 100 dopo, capito perché? Ah, ecco, così sì. E a Londra io metto quello in macchina, gli do 2 watt d'ingresso e me ne spara 80-90 con lineare. Sapete qualche cosa del tempo? Tempo qua sta diluviando, pioggia, grande carriera, capa capa. Ui, ui. facciamo busi vesci. Hai visto nel Bresciano lì, che si è crollato un ponte, che si è deciso a fare tutti i macchini per aver marcheggiato. Se ne pare l'insegna Gianni nel parenti, andiamo a... Se la fine del mondo sta arrivando. Ma io ti posso dire già che non se ne capisce più niente di questo tempo. Sempre pioggia, pioggia, pioggia. Io invece già l'ho capito, la natura che si sta ribellando nei confronti dell'uomo, perché ha provocato molto inquinamento e cose, adesso la natura si ribella. E già un problema, oioi, che casino. E la forza della natura non la vince nessuno, Ha fatto quello che vogliono loro, stanno... Vedi che il tempo è tutto un casino, questo tempo. Tutto rivoluzionato da loro, Appagato, buh. Tutto l'inquinamento, queste strisce acide, cazzo, che fanno gli aerei, oia, dice che si muore in un additivo che fa malissimo e va sui campi, che si avvelena tutto. Questo pilota, che adesso non è più nell'aeronautica, ha svelato questo segreto, che ci mettono questo additivo che fa malissimo, che è cancerogeno, e in mezzo a queste strisce acide, cazzo, fa queste cose chimiche che escono dagli aerei, c'è in mezzo questo liquido che fa malissimo. Per carità, già un casino sta diventando. Ha detto prima di morire voglio sperare questo segreto, dove ti è stato lucato. A Napoli a tempo, guarda, non lo posso sopportare. Sono io, vabbè. E domani fra, speriamo che lui, se no non vado in chimica, io se diluvia non ci va. E dove devi andare perché? Guarda già, adesso sono attaccato, Porto che ha abbassato il vate. Cosa? No, non è abbassato la radio. Avanti Natali, buonasera. Dove devi andare perché? Al CAF devo andare, a ritirarmi 7.30. Me l'ho pagato e tutto, ma non doveva finire. Devo andare a firmare e a prenderlo. Attento Natalino, ascolti questa piccola modulazione, gara gara gara gara. Già ti ascolto. Vedi che mi ascolta pure Natalino con l'antenna di Roma, Gianni, tu non ci credevi, hai visto? E ma adesso sei sparito, dove ti trovi adesso, fra? Frank? Gianni, da parte mia via l'Italia, vicino al policlinico Sassarese, cambio. E dagli saluti da parte mia. E vabbè, già te lo saluto, non ci sono problemi. Ho passato anche troppo tempo lì, i giorni andando, facendo vita. Luca, Natalino davanti. E io che ho subito due operazioni lì. Ne ho subito due lo stesso. Una all'occhio e una alla gamba. Vedi. Questo policlinico che. Tanto ci sono i dottori che sono migliori per cosa? L'ospedale civile. Quello è poco ma sicuro. Ma anche gli infermieri sono meglio dell'ospedale. Sì, sono molto più gentili. Il pilota ti dà la pesce in faccia. A Giuma è una la Kudumuru. I pilari mi hanno già la pancreatite in chimica. Ne le ho detto di tutti i colori. Non sono molto gentili, sono più professionali al policlinico, sono persone più mi accompagnano, ma questa qua mi ha visto difficoltà, questa infermiera mi ha visto duplicare in difficoltà, mi ha preso a braccetto e mi ha detto l'accompagno io sino a fuori, le faccio scendere le scale io piano piano, e mi ha accompagnato sino a fuori e ha detto che Dio la benedica. Anche a me non si sono fidati quando mi hanno operato. No, che me ne stavo andando il giorno stesso e mi hanno fatto accompagnare fuori da un infermiere. No, ma questa mi ha visto andando proprio, non è che gli hanno detto nulla, mi ha visto andando, stavo per scendere le scale, venuta correndo, una giovane mi ha preso a braccetto e mi ha detto l'accompagno io e mi ha fatto scendere le scale. E ogni tanto qualche angelo si trova, infatti. Era in difficoltà Natali perché appena si è operato a fare le scale era una cosa difficile. E ha visto che così è ti ha accompagnato. Sono più umani lì, mi diciamo così. Ebbene, un Natalino. Uia! Cosa stai combinando di bello lì? Mi sto schiacciando il microfono per parlare. Kappa kappa, dai. State arrivando bene qua, Anche lì arrivo con l'antenna di caucciù. Sì, e io non sto usando l'antenna di gomma qua. Sì, da tutti i bassi. Andava, Anda bene, Vera. Hai detto che non uscivi fra invece dalle futillo. Cosa? Mi hai detto che non uscivi oggi, invece ti hanno fregato, ti hanno fatto uscire lo stesso. E allora, ma guarda un po', io che volevo portarmene al caldo oggi, invece mi hanno fatto uscire. Oh, io e Tato siamo bucati tutti e due, tranquilli. Stamattina Natale mi sono dovuto prendere un integratore perché mi sentivo un po' debole, ma debole, una debolezza addosso allucinante. E cosa vuoi fare? Capita, capita. Mi sono preso quell'integratore di sedimenti cattaere, l'acqua. Non c'era dose, né nulla, ne ho messo due cucchiai, via. E mi sono ripreso un po'. E vuoi di tappatue questo integratore? E quello c'ha tutto, c'ha proteine, vitamine, di tutto c'ha, vitamina E, vitamina D, vitamina A, c'ha un sacco di roba. E cappa. Anda bene, Meda. Ma questa ragazza, membro di una delle famiglie di maggior prestigio di Madrid. Uia, io me ne sono alzato poco fa. Signorina. Sempre più vendi, ma è una cosa cazzo non si grida. Si dice vendeva, non più vendi. Vabbè. Se sarebbe italianizzato più vendi. Io che ne farei di radio. Anda. Di lui sono lì. Avanti, avanti, Franco, Franco, dove ti trovi mo? Io sono qua, attraverso via l'Italia, in via Montegrappa. E sta dilungando la grande carriera. Non nulla qua, non ne sento di più, Giabu, sono sotto le coperte, non ne sento. Lì c'è la nuvoletta di Fantuzzi che sta. A voi non piacciono i che sta scaricando. E deve scaricare proprio addosso a me. E tu parlo da 10, a me non me ne tocca i bainotti. Io buso cudrento. Dopo andiamo a andiamo. A che va bisogna comprarsi in mezzo a un figlio? No, di la Faura no. Sì, la Faura, ragazzi, non hai visto cosa è successo negli Emilia Romagna? E non solo lì, da altre parti pure sta succedendo casino. E a Brescia, nel Bergamasco, a Bergamo, ne è crollato un po' per la parte, tutte le macchine verranno barcheggiate sopra. E sono andati veri proprietari, Non so se le pagano, per calamità naturale le pagano la roba. Bisogna vedere se sono assicurati in 10 cose. Non lo usaci. Poi già saranno assicurati, sì, tutto e per tutto, tutti quanti, e chi non si sa mai. In 10 zone. Lo sanno già che sono. Ma noi siamo abbastanza fortunati da lì, perché da noi il maltempo, terremoti, tutte queste cose, grazie a Dio, mi tocco, ma non ne sono mai venuti qua. E qua non può succedere, qua il maremoto dice può succedere, che è peggio. Il maremoto, zona di Platamona, prende Porto Torre, sta quella zona lì, Casa del Sardo. E a piglia pure a noi, se succede un maremoto sono cavoli acidi. Lo so, maremoto, lo tsunami, tutte queste cose che io, cose che non avevo mai sentito. Ehi, tu passo su questi denti che ci gozzi. Per carità, per carità, affidiamoci a Dio. Che cosa buona e giusta. Ma quel Maccolino Condo non è entrato. 30 giorni, 30.000. Sarà dormendo Marco. Davvero mi. Quello è amico di CDN, mi pure lui è tromba di naso, quel Marcolino. Amico di Falcone, se lo entra. Frank, Frank, dove sei? Cambio. Sei fermo o sei in movimento, fra? Deve essere che è fermo lì aspettando la compagna. Rientra, non rimanere. Ma magari, no, forse devo accompagnare l'amica di Lucia. Sì, vabbè, è la vita di Marisu. Ma adesso io mi bevo un bel tè, portatomi dalla 50. Hai visto come ti tratta, da voi ne va vedi mai, ma visto come ti tratta, come ti coccola. E a chi lo sa che non ammazzo mai, ne da buio. Uscire. Allora, lo sai che io sono come un funendi. Quando dico che non so così l'ammazzo va o da buio. Beviti il tè, beviti. Ma ci vogliono biscottini per te, li metti? No, che sono diabetico, peggio di te, cazzo, anche i biscottini mi metti. Ah, non lo sai che dallo spin mi vendono quelli senza zucchero, io, informati, che dallo spin mi vendono quelli senza zucchero, vendono anche i croissant senza zucchero. Sono brutti, però sono buoni lo stesso. E se da voi rimane ammazza la glicemia? E dimmi che sono senza zucchero, bisogna vedere se è vero. Beh, è normale che sia vero, ci metteranno aspartame, ci metteranno, cosa ti posso dire, dolcificante di qualche tipo, però zucchero non ce l'è. Quindi pure Gianfranco Battimora se li prende, me l'ha detto lui, e non gliela fanno salire. E chi è che li prende? Gianfranco Battimora. E allora papà è morto la gabbia, allora andiamo e li pigliamo pure noi. Bisogna cercare, bisogna che ci vada un giorno, perché io la colazione la la faccio solo con caffè e latte, e non è una colazione, diciamo, tranquilla, è troppo leggera come colazione. Per quello questo capogiro che mi viene, questa stanchezza, magari come giovedì se l'ho fresca, come viene? Ma vuol dire che si farà la glicemia troppo, Gianni. Stamattina ce l'avevo a 100, non era tanto bassa. Là. E ho capito. E allora è stata debolezza. Ma forse perché non mangi niente, che pigli solo roba tipo caffè e ti così sicuro così. Vedi, non ho. Perché la colazione si dovrebbe fare, è una cosa che ti deccia un poco, perché devi passare poi tutta la giornata senza mangiare. Quindi se ci metti due biscotti, non dico tanti, ma almeno 4-5 biscotti ce li metti senza zucchero e ti tengono su, da. Infatti. Mi sa proprio che bisogna andare a comprare. Poverino Curto, ammalato pure Curto. Pure Curto, cioè, è mal di gola. Tutti gli mal di gola. La casa serena facciamo, dai. Faccio casa serena. I clunici. Ero di La Paola, no? Che dice? Natali, guarda che c'ho quel nervo in macchina, a proposito. E da voi che andate finito a San Minniru, che ne ricordo dei passati a qualcuna. Ma cosa, l'olivo? Chi sono il più bianco, faccio. Mamma trattava che si batti i panni in vimini, oh, che altro faceva mai. Una volta mi ammetto che avevo bisogno una notte a scuola, dalla base per la mamma con i batti i panni e dall'altra parte mio padre con la cintura, oh, yeah. Ho preso, mi stavano perseguitando, gli ho messo la sedia in mezzo, mio padre è caduto, cazzo si è incazzato ancora di più, oi oi oi. Mi sono confuggito in camera da letto, per il capo in antalurizio, uno una bacia, un'altra mi cudiano il goi. E mamma, cura già batta. Signorina, come vuoi? Ti mi spiegava che andavi cucato, che non ti puoi di fin di e ti cudia. A chi era mi troppo male e non mi la pazia, cudizi. Ehi. Prima ma la sorte ti punivano in modo barbaro. Una volta a casa mamma ha sbagliato, invece di picchiare a coso a Mario ha picchiato a Angelo. Ecco i pili zavatri a cabumi. Cata, roba di su sarà cutto. E invece era Angelo che stava buscando. Ma secondo me tua madre aveva un debole per Mario, ovvero? Ma gli abucava pure tu quando aveva. Allora si è vista perché. Quando aveva bisogno. Vabbè. Tempi passati, siamo a vedere di un bel anno, Natalia. Eda disintava, ma cosa? Lui li bloccava a mi rimani e Eda non riusciva a cudizi. E allora. si premuniva, no? Quando il bucato entrava ti curia. Questo qua è il conto che devi pagare, no? Va via sempre il conto, mamma era brava in matematica. E ammiramento, Natalì va e piglia il sottocoso per la torta e va su. Siamo andati in pari una volta, mi ricordo. Allora ti devi durare e ti dice ma già quanto ti devo dare di resto. Mamma, ammettimi, non usavo la calcolatrice, no? Quando andavo io a consegnare, lei sapeva già quanto doveva avere di soldi. Dimmi tu, non lo sapevo io, che ogni cliente mi ripuliva in bucciacca e boh, non facevo la somma io. Ed invece va via, io la somma pronta. Te ne pagavano volta per volta? Sì, certo, li buttavo tanto ma di... non so, 100 passi, lei sapeva che 100 passi erano 8, però le portavo a tanti clienti, non la portavo a un cliente solo quando dicevo, e se si pagavano subito, e da sabbia io canto via rientrati di là, e col cavolo che la fregavi. Mio padre lo stesso, faceva i conti così, ma faceva conti grossi anche, senza macchinetta, poi tu prendevi la calcolatrice, facevi il calcolo ed era giusto. Guarda, ce l'ho faccio a Gatti, Natalì, l'ha attaccato in linea retta. Già stai andando bene, dai, non è satura adesso. Cosa hai abbassato? Il watt. Cappa di positivo, sì, ho abbassato il watt. Quando tu metti troppo ingresso è che va in saturazione. E vabbè, adesso l'ho abbassato a 3 watt, dai. Sì, così devi, sì. La cosa si tu aumenti, anda in saturazione, non si comprendi nulla da vedi. Uno che come aumenti il watt ti si abbassa la radio, come tu li abbassi ti aumenta. Vabbè, adesso gli ho abbassato il watt, però c'ho il lineare attaccato. Già non sei uscito col suo microfono. Ah, certo, mio hermano deve spostare la sua linea grande. Mamma mia, non c'è mai nessuno già, che sennò succede come c'è rimane a sera. Io mi sono divertito io. Sì, già lo so, una volta ogni tanto già va bene. Io sono stato un quarto d'ora parlando con uno di Firenze, perché volevo fare la prova, vedere se mi sentivano. Era Nichesi che non mi voleva né rispondere. Chiedo, ma a riposo e a giovavità ci siamo sforzati di frequenza e abbiamo parlato un bel po'. Stava usando una di quelle J-Paul, come quella di Carlo. Ma arrivi a sparato i nomi. Sì, già me l'hai detto. E basta, siamo venuti anche noi a parlare. Come già? E se ci chiamavi saremmo venuti anche noi. E voi eravate impegnati qua, in questo canale, in Radicato, va vedendo con tutta l'Italia. Comunque già ci siamo divertiti, ci è passata la serata ieri. Ma capitati di misemmo, guarda che... ci arrivi da all'ora dei pavesini. Ma concetta il pianoforte sta suonando. E allora? La televisione che suona il pianoforte. Cosa concetta? Sembra che... se era quel pianoforte no, che me ne devo andare io, a Chino Bellugu. Cappa. Si sente un bel, si sta sovramodulando. In effetti si sente il pianoforte. A voce. C'ho il microfono a 2. Se lo abbasso non esco. Che microfono sto usando? Il Tanner? No, il MB4 sto usando, il Tanner ce l'ho lì su e devo fare gli attacchi per questo qui, perché gli avevo cambiato gli attacchi per il 23 canali. Ah, e quello cosa c'ha? Attacca a 4 punte. Sì. Questo qui è attaccato a uno spezzone, no? Magari l'attacca a un omologato e va bene, perché io gli attacchi non li ho cambiati a questo. Sì, ho capito. Questo è il dopo che ti è arrivato, così? Sì, io ho messo l'attacco, lo spettone che avevo messo nel Cremile 9, io ho messo, e sta funzionando così. Ma tu prima te l'hai venuto, poi te l'hai ricomprato, quello di così? Sì, amica, c'è un break. Avanti, ciao Nicola, sei masso, ma ti ascoltiamo. Buonasera, ben sentito, doppio rum da questa parte. Papa Nicola, dai, siamo qua. Tu lo senti, Natali? Se non lo sento io, mi arriva Santiago 9, Radio 5 a me. Perché siamo vicini. Ah, è vero, lui abita, sì, abita in via da Caprera. Vicino a Maculino abita, da quelle zone lì. Ah, no. Di Trieste, come giri abita lì? Ehi, vabbè, là, in quella zona, Maccolino abita più su. Tutto su a basso. Tu abita in via Nizza. Ma comunque l'ho sentito più forte io. Se c'ha gli apparati non li usa, adesso che mi dà due massimi, se gli è venuto un Midland, c'ha l'antenna, c'ha l'alimentatore, ma quell'alimentatore poi lo stai usando, lupo grigio, interrogativo, cosa ha detto? E ha cambiato antenna, però c'è più basso, mi sa. Oh, io non riesco a sentirlo bene. Se non si decide a mettere questa antenna sul tetto, ho sentito 110, ma non ho capito. E sta aspettando questo 110%, che poi non ha capito se si fa o meno. Ah, ho capito, lupo grigio. Cavallo, quell'alimentatore lo stai usando, quello che ti ho venduto io. Aiaia, dai. Vabbè, io ti sento proprio pio, proprio basso. Dovessi farti la passeggiata come te la facevi prima, allora sì che arrivi bene. Prenditi l'ombrello e ci fui a modulare. Da fammi da porto che non ho capito. Ha detto che sta chiudendo, che deve fare commissioni. Grigio, dai, mi hai sentito, dai, fate sentire, magari per basso, dai, ciao. Allora gli manca solo l'antenna sul tetto, perché c'ha l'apparato omologato, c'ha il Midland Plus, poi c'ha l'alimentatore, che ne l'ho buscato io, e poi gli manca solo l'antenna, dai. Il meglio gli manca. Mi hanno ringraziato i figli. Purtroppo magari Edu si mi dirige in va forse a piazzarla. Se no la via mi è stata sicuramente. Ma vedrai già la piazza. Ha smesso. C'è la di piove. Tanta lì di piove, l'hai smesso. Franco, sì. Luca. Gianni, sta piovendo forte. Ah, vero? Sì, è uscita da mia moglie a guardare dalla finestra. Allora, mi piace da regalo Gani. Mia moglie l'ha già portato, come ha smesso poco a poco l'ha portato, sennò non può riesci, quindi sera, mamma mia. È un bel casino quando piove. Perché non lo puoi portare il cane, poverino. No, io glielo porto lo stesso, vado sotto gli alberi, ma glielo porto. Ci bagniamo, ma cosa devi fare? Infatti, e il poverino si infondi. No, già vado sotto gli alberi, cerco di riparare, capito? Vado nei punti riparati, però il tratto che fai, si deve arrivare agli alberi, ti infondi. Vabbè, Franco, ci sei. Attenzione Natalino, ci ascolti questa piccola modulazione, capo capo e capo capo. Già lo sento lì. Non c'ha la coda. Che perché per la coda bisogna mettergli alla Gianni, capito? Ci metti un bel girino. Mettiamo l'elicottero, andiamo a Fertilia e rimettiamo l'elicottero. Cava cava e cava cava. Deve essere. Wow. Gianni, hai visto questa voce, la senti? No, sei coccotti ce la deve avere per forza la coda. Gianni, senti questa piccola modulazione, capo. Mi ascoltate. Cambiamento di tempo, fa questi effetti. Cara cara Gianni, tutto sotto controllo, la parte mia. Cavo. Vabbè, aspetta che lo reggo, lo metto l'elicottero, Senti l'elicottero, wow. Quello di Luca ce l'ha l'elicottero. Ma non sono tutte le schede colpi che ce l'ha. Ora! Cavo capo! Attenzione Franco, si ascolti qua, coppa! Guarda, ci ascolti a me, Franco, come sta arrivando, cava gara! A piedi! Andiamo, vai, andiamo! Cava capo! Andiamo! Attento, dottore Squalo, se ascolti questa piccola chiamata! Cava gara e cava gara! Sovramodulo le parole. Cambio. No, questa è ripetizione, non è. Quello di Luca è l'originale. Ma che casino ragazzi, ma per carità, ma negli studi. E se andate da cinema vedi prima amico. Ma perché Antonio, buonasera, ben ascoltato. Questa è la frequenza 27.0.75, eh? Questo è un casino, no frequenza. E ogni tanto ci proviamo a provare questi bidoni qua. Dai. Parre più più no. Comunque Natalia, hai visto che mi tende pure a me con la tenna di gomma, non solo a te, Tore. Ma io la giudicavo su, se tu mi l'hai di gomma. Va bene, la tua di caucciù e la mia di gomma, gata gata. Tu vedi di plastica, pirata. Vai, cosa stai dicendo? Allunga un centimetro, allunga. Cosa vuoi fare? Nuda, infatti non imbatti i giochi Sant'Enna, è un problema, capito? Ma da pensare, puoi vestire il rugoso, 30 rubuco. Va bene, mi ascolti Natalia, guarda, sto usando questo Thunder più 13, com'è la modulazione? Bella. Gianni, questo è il Thunder più 3, come ti sembra? È farato Rugani, ha farato. Paradetto Rugani, hai fondissimo. Oh, io sto uscendo con il computer, Il computer? Bello, sto uscendo con un programma che ho installato nel computer e sto uscendo con quello. Il microfono piccolino. Ma già va bene, dai, già va bene come modulazione, va bene, non ci sono problemi. Solo che ho provato a aumentare un pochettino, ma non facci. No, la modulazione è sempre quella, capito. non è preamplificato, ecco cosa ti voglio dire, capito, dottore? Ma sta cercando di aumentarlo, amplificare, gira, però non fa di nulla, con il dito sto cercando di girarlo, l'ho girato però non aumenta, non lo vedo. Ne dava 10 dB sta andando. Strano, non lo so. Non so che dirti. Il macchinino non è abilitato evidentemente. Eh beh, sicuramente nata lì. Ecco perché non esce preamplificato. Tutto lì. Però già va bene, dai. È una radio normale, non è che poi bretting di che c'è un preamplificato, un microfono da tavolo, un qualunque microfono. Che si senta la preamplificazione? No, con il microfono del computer stesso, però non riesco a farla andare. No. Un attimino al telefono. Andiamo bene, vabbè, cosa ti volevo dire? Riprendi Natali, e qua piove. Oh, frate, stavo parlando con la 50, mi dovete scusare, ogni tanto lo interrompo perché mi chiama. Ore, che fine hai fatto? Franco, attento, Marcolino Condor, ci sei? Ma tutti i morti, sì. Non sentendo più nessuno. E Tore Squalo. Tutti noi. Tore, ci sei? Oggi che è una giornata di pioggia, dovremmo essere più rannicchiati in casa. Invece, più gente, vera più gente a rimani che oggi. Infatti, mica che ce ne vamo dalle 4 e mezza a 5, vicino alle 8. Abbiamo fatto un bel po' di tempo. Oh, comunque sono le 5 adesso, magari entrano gli altri adesso. Sì, infatti è presto ancora. Franco, vabbè, né Franco né Torre, ma che non siano sul 23. No, era al telefono Natalino, era al telefono. Ah, certo. A chi è sparito pure Franco? Andata a cercare la radio. Sei andato? Ah, ti cacci la radio, che fuggita. Ah, così è. Allora, non lo sai che ne fuggi? Io non lo sapevo, ci mandava la sola la radio. Questo dottore è una scienza, No, scienza no. Uno scivolo, Natalino. Cosa vuoi Natalino? Vai su WhatsApp che ti devo dire una cosa. Come su WhatsApp? Stavi non mi puoi parlare, no? E chi l'ha detto che non ti posso parlare? Tore, ti ho mandato un messaggio su WhatsApp, guardalo. Che sonoro. Tore, devi chitarchi sul microfono, ma pure favitarchi verso. A WhatsApp. E così puoi parlare. No, il messaggio netto l'hai. Sì, Natalia, aspetta un attimino che ti sto mandando la figura. E cappa. Ma se no te la mando io, mi di quali sono, così te lo faccio vedere. Ecco perché è tra i prodotti preferiti. No, sono diversi, è diversa la situazione. Ma gente, ti mando la mia, ma. Però è Mattesi di chissà macca, aspetta un attimo, che magari il fischio andrà in vento. Natalia, arrivi tu te. Mo. Non sono tutti uguali, Non sono tutti uguali, poi non nasce manco io, non nasce. Mi devo ritirare il prossimo mese che la giovine di Rubini, la giovine giuro e me la devo passare tutti. Già ho capito. È il fatto che a me me ne ha ordinato una scatola solo, me ne danno, da 25. E praticamente a chi io posso un'insulina solo una notte, no? E me la devo misurare tutto il giorno, due volte alla settimana. Ed è giusta una scatola, però non c'è più alcuna di pizzosa non ti passano in più. Le malattie cardiologiche. E chi sul discorso? Mi? Moltiplica il nostro domani. Ed è acuceca anche la mia. Solo che la mia è quella nera. Allora non va bene, non sono tutte precise. C'è una cosa di diversa. Ecco cosa è. A me, la matte se non me ne ho ordinato 20 zinco, lo devo ritirare il prossimo mese, me le devo dividere, me le devo fare tre volte al mese, e poi tre mesi. No, io due volte alla settimana me la devo misurare, però prima di pranzo, due ore dopo pranzo, prima di colazione, due voci dopo, due ore dopo colazione, prima di cena e due ore dopo cena. E quindi se ce ne baghissu, sono giusti gli uti, 25. Ma dimmi tu. Pensa un poco, io me le ho divise. Me le ho divise e ne ho 8, ne ho 8, 16, 8, 24 in un mese. Ne devo fare, non ne aggiungo più. Quindi me ne devo fare per forza 3 in una settimana. Ma vada una fanguarla, gatta. Guarda. E costano le mie 17 euro la scatola, 25. Sono costretto a comprarmela adesso una scatola io, per questa stronza. Perché me ne ordino una scatola solo a me. Me ne capiteggia una rifiutosa, zira lampu, e quindi sono di meno. Natali, glielo devi dire che non ti bastano, glielo devi dire che te ne faccia quella da 50, non quella da 25, quella da 50 ti deve fare. Cosa vuoi ti dica? Mi pare domani telefoneggio al centro diabetico per posso dire che ti ammazza. A che la visita verrà già a luglio io. Tu verrai a luglio, e lei verrà già a ottobre, viraggio. Agito, se non mi basta, ne faccio una ogni addanto, nelle voto. Ma io per portargli il diario delle glicemie, insomma, così si rende conto se va bene, se non va bene, capito? Io le voglio fare bene la situazione. Ma me ne vado a San Camillo. A chi c'ha ziramanda a fanguarla? Non vi so più, Natalie. Sono sceso io a cercarla e non ci sono più. Sono tutte sua. Allora, hanno fatto lì il centro diabetico. Ah, San Camillo non ci sono più. No, sono tutte lassù a Coso, a Rezzetti. Tutte lassù li hanno portate. Se Luca mi ha detto che a San Camillo è lui. Ma che non ne dica, che sono tutti su sono. Li hanno portate tutti su. Sì, vabbè, andando a fare la visita, tanto vediamo un poco. Ma Miru Giamburu, uno diabetologo, a chi c'è una rompiballe. Ma che va, ma femmina è. Eia, la Gungiu va. Pure gli dicono che è molto brava e cosa no. Ma sono tutti miei, sono tutti così, anche a me mi sta girando le scatole questo. Io non ne vorrei avere così di glicemia e me l'ha domandato by forza. Ma cosa vuoi che ti dica? Ma rapida, in ospedale. Cosa vuoi che ti dica? Purtroppo è così. E nessuno c'ha la macchinetta precisa la mia. Contabili che sono. Perché quello è il tipo vecchio è. Quella la nuova sono quelle che c'ho io, che me la dà nuova, mi l'ha data. E mia madre, posso vedere un tipo che faccio io, mia, aspetta e te la mando. A Baeta chissà che, e io ne ho due di queste macchinette così, però le strisce mi mancano. Natalie, sono diverse le strisce, sono quasi precise, però la fine dove metti è diverso, hai capito? Già lo so che sono diverse dalla tua, è la stessa marca della macchinetta, solo che le mie sono guide e le tue instant, però è la stessa marca se tu le ci vedi. Sì, no, già è così. Quelle che c'è tu costano di meno, invece che budget costano i 26. Addirittura di più di me. Altro che, ma io con internet che me la giavo da 10 euro 25. Sì, vabbè. Vediamo un po'. E una vuol dire me la compro una scatola di riserva. Perché ne ho due macchinette. Quando escono, capito? E così. C'è una bambina che rischia la vita. E lei allora come sta? Mi la pongo nell'altra macchinetta la sacca. In modo che ce l'ho di riserva. Io me le devo comprare perché la mattina a pranzo e la sera non posso farlo perché me ne manca una, quindi la devo coprire così, la devo coprire quella che compro. Infatti bisogna comprarsi di uno, ma cosa se senti che ti do gli anelli, cazzo, guarda, mi dà una futta. Ma io ve lo dico, mica andando anche da dico che non mi bastano a chiarabro, la rabroce ma che ando che mi va si fa nel romano o romanzano oppure una notte, ve lo dico, è ve lo dico che non mi bastano. Infatti così farò io, gli dico che non mi bastano perché ne trovi qualcuna difettosa e ce la devi buttare, e quindi cazzo una scatola non mi bastano. Una già ho due tre difettosi io, pensa un po', una già ho due tre difettosi, non faziamo. Infatti, tre è il minimo, ma voi se acciappi la partita nei feci difettosi, direi che appeteggiare il muro di più di dremmi, che non funzionano, e ce le devi buttare, cazzo non l'ho preso, è logico che una scatola non ti basta. Ma quelle tre le ho portate io alla farmacista, me le ha cambiate, le ho portate, me le ha buttate via, me le ha fatte buttare via, però me le ha date tre strisce nuove. Ah, tre solo di là da due. Sì, erano difettosi, mi ha dato, me le ha ciambate. Guarda, a me mi fanno ridere, perché mi fanno ridere, mi. Ma ce li hanno di riserva loro, non ti preoccupare, ce li hanno di riserva. E non so che ce li hanno, ma non ti dati una tema la giusta raccudia. Io sono salito e il medico mio non c'era. Ha detto guardate che le cose delle strisce hanno funzionato una volta e non funzionano più. Allora, è entrato da Trento nel lungoso e me l'ha dato una cattuetta. A venirani dentro, venirani. Catta gente, catta 10 solo. E di più non gliele posso dare. E così ti dicono, e allora? Ma vai, gatto, qua. Faccio lo coso, dice che non ero... Di più non ero buono a pagare, ecco cosa è. Perché gliele pagano a loro. Già lo so. Quindi di più non te ne possono dare. E quindi si restringono così loro. E ha detto che me ne porto due. O romanzano, o a pranzo, o a notte di voto. Cioè vogliamo pagare per tre mesi. E a luglio Garnaldo mi intendi, chissà. E così li devi dire, che se no già non mi bastano, o me ne da 50, se no io gliene do o la mattina o a pranzo o a cena. Se vuole che mi durino tre mesi. Io sono sei mesi così con una cazzola rumese, gatto. Sei mesi sono. Perché a luglio faccio sei mesi, ogni sei mesi mi dà l'appuntamento questo. A rompermi le scatole. E non mi prescrivo altre visite. Perché non è faccio, ridico. Io lo sto già dicendo adesso. Basta, finisci. Posso fare le visite di routine e basta. Gli porto le analisi del sangue e boh. No, si è con noi di grazie. A che cosa mi ha detto a me Natalia? Eh? Faccia quello che vuole. E così fosse infatti. Ah, va, mi sono ribellato. Sì, da una visita all'altra ero. Ah, va a fanculo. Ma non si nato caso un'altra. Un'altra risonanza magnetica, vai, non posso nulla. Non mi riposto. Io non mi desidero. Ehi, a me mi rappuccia. Che ne so che andata la cosa, ma mi dice, ma questo scemo è questo medico. Ma ne telefonato dice che non si può fare. Me la salvata. Cazzo, sempre visiti, all'oculista mi ha mandato, a rugardiolo, e hanno fatto poco di visite, cazzo. Perché purtroppo... Natalia, se me faccio ancora la guida di una visita oculistica, gliela devo fare il 10 ottobre, la devo fare, e poi il 16 devo andare da lui. E vabbè, chi c'è in tempo a farla, ma io... Chi si immaginata giù fatto, ma però non ando più né a nessun luogo, le visite normali faccio e basta, gli dico, perché non c'ho nulla. Se mi vuole fare l'ecografia per la gamba, perché a me mi interessa la gamba per poter camminare, la trovano morta dopo 3 giorni. Se no per gli vedi a cuore a capo ranca. E se no me ne la posso tagliare, me la posso fare da Giulio, manca di regna. Ma questo è da voi, con l'anca di legno mi raccudi a barri, mi raccudi. Ah, ma con un papel da più. A pronti, mi raccudo. No, a pronti di lasciare un marchio, invece se la abbigli a barri, e vieni da barra, e vieni. Ma ti immagini già con l'anca di legno a capo. Andiamo. E se non me ne fa fare di questa operazione qua, me ne la faccio tagliare, poi vado a quell'amico mio che fa legname e me la faccio fare di legno, gli dico. Non hanno mai creduto. Di te che me la faccio fare. E questo ti risponde come te risponde a me. Faccia quello che vuole. Mi dice sempre. E così da. Se mi dice faccia quello che è, così posso. A chi posso comanda? Io comando. E mi c'era mandato da un altro medico, mi c'era mandato. Ecco, guardi, qua vicino ce n'è un altro di medico, vada da quel medico lì e se la faccia fare. E cosa mi agito io? E cosa mi faccio fare? Ma da un poco, questo attacco di epidemia. Se mi rompe a le cazzo le rispondo mari. Dico, anche di volte ne chiesto che ne fatta a nonna, le dico. Come è il tuo paretta? Ciao Giulio. Ti abbigliamo a di collegamento. Magari ti piace buru. Albo, a sua discrezione, faccia quel che vuole, io buru, gli dico. Andiamo. E so che è andato Salvatore. E quando la Giulia me la posso fare di coso, o di Pino di Svezia, meglio di Pino di Svezia. Certo, più bello esci, lucida, dici. Allora me la posso fare di Pino di Svezia. Ah, va, più di legge, a Giulia. Non frequento più. Non so come travagliare, c'è con pensione. A me a meno quasi rubiazzi. Andiamo. Dai. Lascia 4 bambini. Ma dimmi tu, cosa uno deve fare? Ah, vero, guarda, io da qui, da casa mia, al mercato, mi viene questo dolore allucinante. So. Dimmi tu, se uno può stare in queste condizioni. Molto isolato. Cosa vuoi che ti dica? Comandami e ti comandami. Certo, a parte le cose sono bellonghi, sono. Sì, già c'è un'amica che è chirurga. Adesso quando viene qua la parlo e glielo dico, io ho questa cosa alla gamba. Perché è una cosa vascolare, mi è un'arteria ostruita e non mi arriva sangue alla gamba, capito? È quello, Vabbè, la cosa non riescono a farti, cioè farti l'operazione, a entrarti la sondina e liberarla. Ehi, l'operazione chissà è. Lo fanno in angiografia, lo fanno. A me quando lo mattessi ha già avuto un infarto, non mi hanno fatto così. Ma mi hanno becca a me, no? Mi hanno buttato una sondina e hanno liberato l'arteria ostruita che vira. In cardiologia me l'hanno fatto questo. Però per la gamba, in angiografia so che lo fanno quello lì. Ah, ne ho portato parecchi quando portavo l'ambulanza io a Sant'Ubrillo, in angiografia. Lì gli facevano quella cosa lì. La stessa operazione. Si chiama angioplastica, infatti. Già è così, sì. Già è così, purtroppo. Anche se bisogna agitare, anche non è un bene che si pazienti. Ma così è. E così sia. E se no, nella camera per alcuni in alta la banca mia, chissà, andando a luglio. Questa è la verità, il resto sono balle, ti dico. Ma magari direte in faccia a Buru, chissà. Certo. Dice, quella gamba lì non mi serve a me. Ti dici. Ma dice, questa è la terza gamba, cosa non gli serve? Cazzo, la guardi bene che se ne innamora lì. Oh, Natalia, ti dici direttamente, no, lasci perdere. Quella gamba lì non mi serve. C'ho quella di mio marito, ti dici. Guardi che questa è un nome e una garanzia. Questa è sarda, non si crede. Peccata. Allora si piglia che rivibra, si piglia. Cazzo di altro. A me di discorsi se mantenni. Se mi arrivite anche se discorso. Pisturai. E tu non mi credi. Allora, ieri a Ceri quando c'era tutta l'Italia in propagazione. Sì che c'ero, sino alle 8 meno un quarto, poi ho mollato. Sono sino alle 8 meno un quarto e poi mi sono andato che dovevo farmi pigliare i battiti e controllare la glicemia. E infatti io a chiusura la matessi cosa, posso. Cosa volevo dire? E io ho parlato con uno di Firenze, più di un cazzo duro avevo a vedere in SSB, perché sono andato nel canale di chiamata e ci siamo spostati di frequenza, più di un quarto d'ora va a vedere un vizio. No, io sono rimasto, stavo ascoltando con loro, è veranissimo di... Oh, un momento di gallo guida. Poi ne sono tradiato, non si comprendeva più nulla. Io me ne sono andato a parlare nel CSB e guarda, mi ha fatto un bel QSO con questo qui. Oh, ma che apparato ti è arrivato, Natalia? Mandami la figura. E aspetta, se lo... Adesso... Allora, aspetta un attimo. Il frontalino mi basta, mi sono il frontalino. Mandato. Guardato, l'hai. È la Nissan 5555. Come il 2009. Però questo è l'originale. Da questo qui hanno fatto tutti gli altri uguali. Sì, che l'ho visto, Natalia.